Incontri di Gianfranco Fabi. Con le note, possiamo dire, eterne di Giuseppe Verdi, Va pensiero, del Nabucco, iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano, e buongiorno e buon pomeriggio a Gianfranco Sen. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Il Nabucco di Verdi, Va pensiero, come mai questa canzone così epica, la scelta per introdurre questo dialogo? Ma perché mi dà sempre l'impressione di un qualche cosa che tende al positivo, che tende a costruire, che tende a una speranza da una parte, e dall'altra, se penso a quando è stato composto, cioè da Verdi nel momento del Risorgimento, in cui voleva mobilitare le forze a favore del costituendo paese, io sento molto forte la voglia di costruire questo paese, ho un senso dell'istituzione molto forte, e quindi mi dà sempre una, possiamo dire, un po' di adrenalina in questa direzione. Di ricostruire adesso, ci vuole passione. Gianfranco Sen, docente dell'Università Bocconi, fino a qualche settimana fa presidente della metropolitana milanese, e esperto di trasporti, di economie locali. Una delle prime occasioni in cui ho incontrato il professor Sen è stato forse 30 anni fa in un convegno sulle Brianze. Aveva fatto uno studio sulle Brianze d'Europa, sbaglio? Esatto. Fu uno studio comparativo perché volevamo capire come alcuni fattori di sviluppo, di dinamismo imprenditoriale, di capacità organizzativa, di serietà del lavoro e di operosità lombarda potesse essere messa a confronto, direi in posizioni di vantaggio rispetto ad altre economie molto simili che esistevano in Francia, in Inghilterra, in Germania. Ecco, allora la Brianza era veramente un esempio di imprenditoria dinamica, capace. La Brianza ha avuto anch'essa la sua crisi. Cosa riscriverebbe di quello studio dopo 30 anni? Ma direi che non sono cambiate le condizioni soggettive, cioè le persone sono sicuramente, hanno lo stesso spirito, lo stesso cuore, la stessa creatività di allora, perché è un problema di cultura locale molto forte. Sicuramente le condizioni di contorno sono cambiate molto, e di conseguenza la competizione che allora le imprese brianzole vincevano oggi fanno più fatica a vincerla, perché ci sono paesi che producono gli stessi beni a prezzi decisamente competitivi, molto più concorrenziali. Penso ai soliti paesi che una volta si chiamavano emergenti, ma che oggi sono assolutamente emersi, come la Cina, l'India e quant'altro. Credo che si faccia, che anche in Brianza si faccia fatica a ricalibrare e a riposizionare quella stessa creatività e quella stessa operosità di allora. Forse oggi ci vuole più dialogo, più apertura anche con altri contesti, con altre istituzioni italiane. Non. Ecco, la crisi ha fatto comunque una grossa selezione, restano delle imprese peraltro dinamiche, peraltro capaci, di successo, sono quelle che hanno saputo innovare, che hanno saputo internazionalizzarsi, che hanno saputo puntare sulla qualità, e quindi anche nei settori tradizionali del mobile o della meccanica la Brianza è ancora comunque una zona di eccellenza. È una zona di eccellenza soprattutto per le imprese, come stavo dicendo adesso, che hanno saputo creare nuovo valore aggiunto al valore aggiunto di una volta. Una volta il valore aggiunto era il prodotto fatto bene, era anche il prodotto innovativo con innovazione incrementale ma sempre molto, molto significativa. Oggi il valore aggiunto è più sul post-produzione, cioè sul design, sugli imballaggi, sull'organizzazione di marketing, eccetera. Sull'assistenza al cliente, sull'assistenza, quindi su tutte quelle cose che fanno del prodotto anche un servizio, in fondo. Ecco, ma a livello locale, quale economia locale italiana si è difesa meglio in questa crisi ormai fin troppo lunga? Diciamo, è difficile fare degli esempi perché... non dico in modo generalizzato, ma sono venuti meno i sistemi, cioè le economie locali in quanto sistemi. Sono andate avanti in tante situazioni del Veneto, del Piemonte, della Lombardia, del centro Italia, della Toscana, dell'Emilia, delle Marche, singole imprese, mentre invece un po' per paura, un po' per difficoltà oggettive, si è un po' disperso il territorio, il tessuto relazionale anche quello, tra le imprese, anche quelli che vengono chiamati distretti che avevano sostenuto in fondo la crescita negli anni 70-80, si sono un po' persi? Secondo me sì, perché ci sono imprese dei distretti che sono state capaci di internazionalizzarsi, ma qualche volta quelle che si sono internazionalizzate hanno perso gusto e opportunità per le relazioni locali, e quelle che invece sono rimaste compatte nel sistema distrettuale non hanno saputo internazionalizzarsi e quindi aprire. Oggi credo che il vero punto vincente sia quello di imprese e sistemi che sanno tenersi uniti all'interno e aprirsi sull'esterno. Senza questo equilibrio di apertura verso l'interno e verso l'esterno, si rischia che i sistemi produttivi non tengano la competizione. Ecco, abbiamo presentato il professor Gianfranco Sen anche come esperto di trasporti e come ex presidente, è stato presidente fino all'inizio di luglio della Metropolitana Milanese. Ecco, la Metropolitana Milanese come società è una società che non gestisce, perché mi pare che gestisca l'ATM, i treni della Metropolitana. Che compiti ha? Ma sul fronte dell'ingegneria ha i compiti di progettare metropolitane, altre linee di mobilità veloce, urbana, metro, tranvie, anche sistemi tranviari speciali. Fa anche opere di progettazione di viabilità, di ristrutturazione di edifici di proprietà del comune. Quindi non solo la metropolitana nel senso vero e proprio delle linee metropolitane milanesi, ma anche una società di ingegneria. Assolutamente una società di ingegneria, a cui si è accostato qualche tempo fa, ormai 10 anni fa, proprio alla fine di giugno ricorreva il decennale, è stato girato a metropolitana milanese da parte del comune il servizio idrico, cioè sostanzialmente Metropolitana Milanese gestisce l'acqua della città di Milano e la gestisce come punto di eccellenza assoluta, nel senso che il costo dell'acqua è il più basso d'Italia. Beh, anche grazie alla natura, perché Milano basta fare un buco e viene fuori l'acqua. Esattamente. Ma anche la qualità, per esempio, è un punto di forza e di eccellenza di Metropolitana Milanese, e quindi diciamo come servizio pubblico sa gestire molto bene anche tutta la parte a valle della distribuzione dell'acqua, la depurazione, lo smaltimento dei fanghi, eccetera. Questo ne fa un'impresa con due anime, due cuori e due anime, quello ingegneristico e quello idrico, e da questo punto di vista un'impresa pubblica che funziona molto bene, che è molto moderna. Ecco, sta costruendo adesso una nuova linea della metropolitana, mi pare la linea 5, dovrebbe essere pronta per l'Expo 2015, ce la farete? Ce la faranno poi i suoi successori? Ce la faranno sicuramente. Metropolitana, dopo averla progettata, ha fatto una gara, per cui c'è un consorzio di imprese private che la sta costruendo e che gestirà anche il servizio. C'è dentro anche ATM, quindi c'è già una precostituzione di chi potrà gestire il servizio in modo omogeneo al resto del territorio. Una parte è già stata inaugurata, la cosiddetta linea Lilla, tutta la 5 sarà la linea Lilla, ma connetterà, diciamo, la Monza, un po' prima di Monza, fino a San Siro dall'altra parte, passando attraverso la stazione Garibaldi e soprattutto il nuovo quartiere di City Life. Ecco, quindi una linea impegnativa. Restiamo nel tema dei trasporti e chiedo all'esperto di trasporti di dire la verità. Cosa ne pensa della Torino-Lione? Ma io sono convinto che sia opportuna e necessaria, perché non si può ragionare solo sulla sicuramente non si può ragionare come anello di un percorso che va da Lisbona a Kiev. Molti detrattori hanno detto: ah, ma chi va da Lisbona a Kiev? Nessuno. Ma una linea, qualunque linea di trasporto, neanche una metropolitana, fa i percorsi da un capolinea all'altro, o meglio serve persone che vanno da un capolinea all'altra, serve tutti i segmenti, c'è chi sale, c'è chi scende alle varie fermate. Da questo punto di vista il nesso Lione-Torino è un nesso che si innesta, che fa parte di un percorso più lungo, che riceve persone e merci che arrivano dalla Francia e dall'Inghilterra, che vanno oltre che a Torino a Milano, a Venezia, in direzione dell'est. Non si può non essere interconnessi a livello di rete globale. Ecco, ma in prospettiva si dice che le merci viaggeranno meno, perché ormai il mondo si sta un po' destrutturando, le merci che viaggiano sono quelle virtuali, si viaggiano sul web, le persone viaggiano magari un po' di più, ma viaggiano magari con tempi anche un po' più lunghi, o chi ha fretta prende l'aereo. Quindi la vecchia concezione di linea ferroviaria, secondo alcuni detrattori, tra 10 anni sarà superata. Ma proviamo a immaginarci che cosa vuol dire questo luogo comune in termini di merci. Le merci di cui noi abbiamo bisogno per mangiare, per vestirci, per arredare la casa, non è che siano merci sul web, sono merci che sono assolutamente concrete, fisiche, tangibili, e queste viaggiano da qualche parte. Possono viaggiare sui treni, possono viaggiare via camion, possono viaggiare via mare. Quello che non viaggeranno sarà essenzialmente via aereo, prevalentemente, tranne alcune eccezioni. Allora, il treno sulla parte continentale è l'unico modo con cui è possibile non solo muovere merci in quantità significative, ma muoverle anche in modo sostenibile, cioè con costi ambientali decisamente inferiori a quello a quelli che sono generati dalla gomma. Da questo punto di vista non vedo affatto una riduzione del traffico ferroviario. Se non ci fosse una economicità maggiore del traffico ferroviario, sicuramente la strada continuerà a prevalere, e quindi il tunnel potrebbe diventare inutile. In questo senso è una scelta strategica. Ecco, ma perché l'Italia ha così ritardi sul fronte della realizzazione di queste infrastrutture? La Svizzera sta completando la costruzione dell'Alpkansit, la galleria più lunga del mondo sotto il San Gottardo. L'Italia non ha ancora deciso se quadruplicare la linea tra Chiasso e Milano. Anche sull'alta velocità italiana ci sono stati tempi molto più lunghi e oneri molto più forti di quelli di altri paesi come la Francia o la Spagna. Perché è così difficile costruire nuove infrastrutture in Italia? Ma direi, come sempre, non c'è una ragione unica, ce ne sono una pluralità. Le ragioni molteplici sono: abbiamo una normativa assolutamente ingessante la scelta e i percorsi decisionali della realizzazione di infrastrutture e della progettazione. Quindi da questo punto di vista abbiamo un rallentamento dovuto al complesso delle norme. Poi abbiamo una ideologizzazione delle infrastrutture che vede contrapposti, diciamo, il mondo di chi sostiene che le infrastrutture fanno sviluppo e il mondo di chi sostiene che le infrastrutture portano solo danni ambientali. Questa contrapposizione è frutto di veti, di ricorsi, che anche non più sul piano normativo ma sul piano dell'amministrazione rende i tempi insostenibili. Poi non nascondiamoci che comunque il mondo dei costruttori, il mondo di chi deve realizzare queste offerte, queste infrastrutture, tutto sommato ha anche interessi, in una situazione così conflittuale, così combattiva, ad approfittare un pochino, per cui i costi qualche volta sono superiori a quelli che potrebbero essere. Incontri. Oh, ancora con le note del Nabucco di Verdi, Va pensiero, mia patria sia bella e perduta. Continuiamo il nostro incontro con Lanfranco Sen, docente dell'Università Bocconi, fino a poche settimane fa presidente della metropolitana milanese, esperto di trasporti, di economie locali. Stavamo parlando nella prima parte del nostro dialogo sulle lentezze, sui costi delle infrastrutture in Italia. 50 anni fa, professor Sen, è stata inaugurata l'Autostrada del Sole, mi pare che sia stata costruita in 5 anni. Forse se dovesse essere costruita adesso ci metteremmo molti, molti più tempo. Sicuramente, perché si è sovrapposta e ha finito per ingessare la realizzazione di infrastrutture una normativa che non è sempre stata lineare, che è cambiata troppo rapidamente nel tempo, che quindi ha reso gli investitori meno sicuri di quello che potevano essere le loro decisioni di investimento. Oggi i problemi sono anche più complicati. Se pensiamo che una volta il problema dell'Autostrada del Sole era collegare Milano con Roma, col sud, oggi abbiamo un'Autostrada del Sole che serve una pluralità di città, che serve una pluralità di luoghi di produzione significativi e che può costituire un'opportunità di una nuova opportunità di collegamenti e di investimento. Ecco, comunque a livello di dotazione di infrastrutture l'Italia è sempre descritta come un paese un po' in ritardo rispetto agli altri paesi. Sì, in modo di non uniforme. Per esempio, noi abbiamo una dotazione a sud che è addirittura oggi superiore a quello che sarebbe il fabbisogno di collegamenti. Da questo punto di vista credo che non ci vogliano più a sud infrastrutture, come si suol dire, per generare opportunità nuove di collegamento. Bisognerebbe far funzionare bene quelle, e credo che oggi la loro capacità non sia ancora satura. Viceversa, a nord abbiamo una sottodotazione paradossale, anche se ne abbiamo fisicamente di più, perché quelle che ci sono sono ormai congestionate, quindi la dotazione dovrebbe essere sempre misurata in funzione del a che cosa serve l'infrastruttura, e da questo punto di vista abbiamo due difformità tra nord e sud. Ecco, basta vedere appunto le autostrade congestionate attorno a Milano. Le strade non mancano, ma percorrere al mattino diventa un'incognita, per cui la famosa Brebemi, la Milano-Brescia, la Pedemontana, che sono in realizzazione, sono opere che saranno molto utili per decongestionare un po' il traffico. Nel caso di queste opere che lei ha citato, sono sicuramente assolutamente essenziali, proprio perché devono rispondere ad un fabbisogno di mobilità ormai congestionato e consolidato, cioè il tessuto delle relazioni tra città, tra paesi, tra impianti produttivi, tra fabbriche, oggi soffre della carenza di capillarità o di prestazioni delle autostrade di media distanza. Quindi questo fabbisogno ancora c'è, e c'è in modo analogo a quello che c'è in altri paesi come la Germania, la Francia, l'Inghilterra. Ecco, ma si può dire che una città come Milano abbia fatto una scelta di modello di sviluppo, fatto una scelta per esempio di chiudere un po' il centro alla circolazione attraverso l'area C, quindi un pedaggio anche per il centro, ha fatto una scelta appunto di realizzare delle infrastrutture di collegamento, ma c'è un modello di crescita di una città come Milano? Ma un modello di crescita esplicito non c'è. Ci sono delle intuizioni che sono tutte condivisibili. La chiusura del centro rappresenta una risposta sia al problema dell'eccesso di inquinamento che della congestione, quindi prima Ecopass e poi Area C rispondono in modo abbastanza efficace anche a superare questi due problemi. Forse vedo ancora, ormai da parecchi anni, una mancanza di vision sulla competitività di Milano, su che cosa si vuol fare di Milano perché questa vada a competere con altre città europee e mondiali. Anche se sono rimasto sorpreso, il dato è di qualche anno fa, non di moltissimi anni fa, di classifiche che vedono Milano addirittura ai livelli altissimi a livello mondiale, settima nel mondo in termini di capacità relazionale. Questa è una cosa importante. Milano è una città che ha, insieme dopo New York, il maggior numero di consolati di paesi stranieri, il che vuol dire che a Milano gli altri paesi guardano come come se Milano fosse una necessità in termini di relazioni con la città, ma anche con il resto del paese. Certo, ci sono anche realtà che magari sfuggono all'osservazione generale, per esempio Milano ha una grande dotazione di studi legali, grandi studi legali internazionali, quelli che sono soprattutto a servizio delle imprese, sono soprattutto a Milano, e quindi anche questo è una capacità relazionale. Ma in questa prospettiva Expo 2015 come si può collocare? Milano sta sfruttando questa possibilità? Io spero che la sfrutti. Secondo me in buona parte si è detto troppo in denigrazione dell'Expo e dei tempi, dei ritardi nei tempi. Io sostengo sempre che se avessimo costruito l'Expo con grande anticipo, magari i padiglioni, questi sarebbero rimasti sottoutilizzati, addirittura vuoti, e quindi preda di occupazioni possibili e di deterioramento anche fisico, e quindi va bene arrivarci in tempo ma non con troppo grande anticipo. Il disegno che sottostà alla natura dell'Expo mi pare un disegno molto interessante, perché dal punto di vista culturale è tra l'altro quello che ci ha fatto vincere la gara del BIE, del Bureau International des Expositions. Sono questa idea di poter fare padiglioni non solo per paese, come è stata Shanghai, ma per problemi di nutrizione che riguardano non solo le risorse ma anche le categorie dei consumatori, quindi gli anziani, i bambini, legate a certi prodotti in particolare, credo che sia un'idea vincente. Io sono molto ottimista sulla capacità italiana e milanese in particolare di avere successo anche con Expo. E Alan Francosen, come economista, chiedo, ce lo possiamo permettere l'Expo? Assolutamente sì, qui mi sento anche parte in causa, in parte perché avevo fatto per conto di Expo la valutazione di quelli che sarebbero stati i benefici, le ricadute economiche di una grande intrapresa come quella, e non sorprenda il fatto che quello che si spende per realizzare l'Expo, i finanziamenti per le infrastrutture, i finanziamenti per i padiglioni, i finanziamenti per la stessa manifestazione, hanno un ritorno economico, persino fiscale, e quindi addirittura in termini di equilibrio dei conti dello Stato, assolutamente positivi. Questo avviene sempre. C'è lo sbilanciamento finanziario, perché prima bisogna spendere per realizzare e poi si incasserà per ottenere ritorni. Questa è una delle condizioni. Quindi lo sfasamento temporale può porre legittimamente la domanda se siamo in grado di reggere. La seconda cosa è quella delle imprese, perché è chiaro che le ricadute positive avvengono se le imprese sanno cogliere questa opportunità. Mi ha colpito una volta sentire un dibattito su Expo di un imprenditore, un albergatore, che diceva, che chiedeva all'amministratore delegato di Expo: ma voi che cosa fate per noi albergatori? E la risposta è stata secca ma anche molto condivisibile: non tocca a noi preoccuparvi delle ricadute che voi saprete cogliere, se non saprete cogliere sono problemi vostri. Credo che tutto sommato è qui che sento un po' di peso della crisi sull'economia italiana e sull'imprenditorialità, cioè la minore capacità di un tempo di saper cogliere le opportunità, di essere vispi ad afferrare l'istante. Ecco, ma in questa prospettiva ancora da economista, diciamo da economista generale non locale, come vede le prospettive? Si parla di una piccola ripresa entro la fine di questo 2013, poi di un 2014 in crescita. Possiamo avere fiducia in questa economia italiana? Ma io sono fiducioso, perché l'Italia ha una cultura dello sviluppo e della crescita che non è stata penalizzata neanche dalla crisi. Sicuramente abbiamo fatto una grande fatica, stiamo facendo una grande fatica, ma sono abbastanza, ripeto, fiducioso. Credo che un passo nuovo che dobbiamo fare è un passo di maggiore condivisione tra soggetti diversi di quello che è la costruzione della crescita e delle opportunità. Oggi l'impresa singola non ce la farà mai a vincere le sfide della globalizzazione. Oggi il singolo territorio non ce la farà mai a vincere la competizione. o facciamo sistema, ma non voglio che sia uno slogan, voglio che sia la consapevolezza che solo insieme si vince una gara. Ognuno che faccia la sua parte, ognuno che faccia il proprio dovere, ma con un obiettivo comune. Ecco, in questo il nostro paese forse ha qualche passo da fare, qualche passo concreto, anche a livello di sentimento, direi di passione, proprio rifacendoci magari al Nabucco di Verdi. Sono convinto di questo, vorrei fare una citazione dotta, se me la passa. La parola competere viene dal latino cum petere, che non vuol dire confliggere, ma vuol dire cercare, petere, un obiettivo insieme, cum, magari in forme diverse, ma raggiungere il perseguimento di un obiettivo comune. Questo è quello che ci manca. Noi abbiamo viceversa trasformato l'idea di competizione in una gara conflittuale e questo ci perde. Anche perché siamo convinti che se io guadagno qualcosa devo per forza rubarlo a qualcun altro, mentre invece possiamo guadagnare tutti e due se facciamo tutti e due un passo in avanti. Assolutamente. Con quella logica che gli americani chiamano win-win. Assolutamente così. E con questo, con questa speranza appunto di poter camminare insieme, di guadagnarci un po' tutti in questa prospettiva un po' appassionata per dare una speranza in fondo a questo paese, concludiamo e ringraziamo Lanfranco Sen, concludiamo il nostro incontro, ringraziamo Lanfranco Sen di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringraziamo Luca Cremonese in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che questo programma con tutte le sue puntate può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.